Consumo, consumismo. La fase culturale che stiamo vivendo è detta anche civiltà dei consumi. Gli uomini hanno ovviamente sempre consumato e da un certo punto in poi anche prodotto. Allora perché questa qualifica per il nostro tempo? Una qualifica oltretutto non proprio esaltante. Ridurre i consumi, dicono gli uni, aumentare i consumi, dicono gli altri. Da un lato l'ecologia, dall'altro il welfare e gli interessi economici di pochi. Sia come sia, la sopravvivenza umana si gioca sulla ecocompatibilità degli sprechi e questa ecocompatibilità è in continuo rapido calo. Da consumo la lingua italiana permette di derivare consumismo dalle connotazioni lievemente spregiative. Anche se non del tutto convinti, nel consumismo ci siamo dentro fino al collo e se non ne saremo tratti fuori a forza è poco probabile che ci riusciremo da soli. Eppure, secondo il parere degli ecologisti meno legati agli interessi del capitale, o ce la faremo a uscire dal consumismo o possiamo considerare conclusa la nostra avventura terrena. Dovremmo quindi smettere di consumare? Un bruco che rode una foglia non consuma l'albero fin quando questo è in grado di rigenerare la foglia. Ma la terra non sembra sia più in grado di rigenerare ciò che direttamente o indirettamente consumiamo. Infatti il consumismo distrugge molto più di quanto serve all'uomo per sopravvivere. E non sono soltanto i beni materiali che si consumano. Anche la Gioconda o la Nona di Beethoven subiscono una sorta di degrado culturale per eccesso di consumo. È possibile un recupero di ciò che il consumismo materiale o culturale distrugge? Sarebbe già molto se riuscissimo a salvare l'esistente, ma anche questo è assai improbabile se non ci convinciamo tutti singolarmente ad abbandonare la via del consumo distruttivo. Sì, a me è piaciuta molto all'inizio, dove si fa, c'è un distinguo importante, quando si fa un discorso storico e quindi si dice che l'uomo ha sempre consumato, ha sempre prodotto e ha sempre consumato. Però si legge tra le righe e poi dopo alla fine, infatti ci arrivi gradualmente, che quello che invece c'è nell'ultimo periodo, che è un periodo che possiamo mettere negli ultimi 50 anni, ma io farei anche qualche anno in più, è un consumo senza senso, cioè si è un po' persa la bussola in un certo senso, quindi si è diventati iperconsumisti. Quindi dal consumo al consumismo in un certo senso. Sì, dal consumo che copre un'esigenza reale alla creazione anche poi, alla distorsione di quello che realmente serve, quindi addirittura a una modificazione del pensare, no? È per bacco. Anche a me ha attirato la mia attenzione in questo caso la chiusura. Quando parli aggiungi un aggettivo molto carico di valore, no? Valore inteso come presa di posizione, parli di consumo distruttivo. Ecco. Si capisce che nella trattazione allora ci sia la speranza che ci sia un consumo non distruttivo, costruttivo o almeno conservatore nel senso energetico del termine, no? Eh sì. Ma è possibile? È una pia speranza? Ha senso parlare di consumo costruttivo? Io penso di sì, adesso non lo so naturalmente in generale, ma per esempio il consumo culturale io lo vedrei come sensato solo se produce nuova cultura, cioè se no effettivamente se noi ci limitiamo a riprodurre la Gioconda in infinite cartoline la cosa non mi pare sia molto costruttiva, ma se noi riusciamo attraverso un'analisi, una contestualizzazione della Gioconda a tirarci fuori qualcosa di diverso, anche di completamente diverso, ecco, noi abbiamo sì consumato un pezzo di Gioconda, diciamo, però ne abbiamo ottenuto diverse cose nuove. Questo nel caso della cultura è direi quasi normale, la cultura in genere, adesso non so oggi, ma almeno tradizionalmente, era consumata per generare una cultura nuova e diversa. Nel caso dei beni materiali, noi la cosa non so, mi sembra un po' più complicata. Noi consumiamo per esempio materie prime, ma non riusciamo e forse non ci proponiamo nemmeno di produrre altre materie prime, anche perché non sappiamo come fare, no? Quindi forse sarebbe il caso di concentrare un po' l'interesse se è possibile consumare e nello stesso tempo aumentare l'esistente, la presenza di cose da consumare. In effetti mi viene in mente, stavo, come vedi, appunto durante la discussione uno cambia subito idea, perché stavo per dire il consumismo è più che altro un consumismo materiale, no? Quindi finalizzato a qualcosa che è uno spazio, no? Qualcosa che ha a che fare con la fisicità, eccetera. Invece no, c'è anche ad esempio un consumo di tempo negli ultimi anni che forse è cambiato rispetto a una volta, non so, questa è una domanda che faccio. Cioè il fatto che si consumi il tempo, cioè questa volontà di consumare più tempo possibile, cioè riempendosi la vita di tante cose, tanti impegni temporali diversi. Quindi un consumismo non solo materiale, ma anche temporale. È interessante questo, l'idea del tempo che si possa consumare. Sì, finisco rapidissimamente, mi è venuto in mente proprio sentendo questa osservazione, che noi non abbiamo un tempo infinito e soprattutto non abbiamo un tempo rinnovabile a disposizione, e quindi se consumiamo malamente quello che ci è mediamente assegnato non facciamo un buon affare. Io vedevo in seguito ai vostri interventi, vedevo che nella parola ci sono diversi strati. Siamo partiti da un'interpretazione piuttosto letterale o materiale, cioè consumo come utilizzo in un processo fisico di una sostanza materiale o di un insieme di sostanze materiali che modifichi, che trasformi, che distruggi dal punto di vista di quella sostanza materiale, perciò il senso è consumo distruttivo. Ad esempio, quando, che ne so, ci mangiamo una fetta di tonno, può essere un materiale naturale, diciamo, legato a una sostanza viva, o quando consumiamo, che ne so, una materia prima minerale, petrolio, o niobio che sia. E questo è un primo utilizzo che è evidentemente distruttivo, nel senso che momento precedente al consumo c'è una unità fisica, momento successivo non c'è più e non ci torna, almeno non ci torna in tempi ragionevoli. E invece tu introducevi il concetto metaforico di consumo culturale. Consumiamo la Mona Lisa se la riproduciamo troppe 100 miliardi di volte. Qui ci stiamo preoccupando del consumo in un senso metaforico, mentre una persona che vede la Mona Lisa una volta si può, nel contesto adeguato, si può supporre che ha una reazione, ci sono le probabilità che abbia una reazione piuttosto viva, perché tutto sommato non è l'ultima cartolina che sia stata dipinta nella storia dell'umanità, c'è parecchio da dire, parecchie risorse espressive messe in gioco. Ma invece potremmo ragionare che se proprio incartiamo tutta la nostra esistenza con Mona Lisa, in qualche modo ci attutiamo quella nostra sensibilità. Cioè, che cosa va perduta? L'informazione. Viene perduta la nostra capacità di reazione emotiva, la nostra partecipazione in quel processo. Ma viene perduto anche l'equilibrio proprio. Cioè un equilibrio tra il troppo e il troppo poco. Ovvero consumare, avere necessità di consumare molte cose. E allo stesso tempo consumarne troppe, quindi in un certo senso è come se fosse insipido e troppo condito. E quindi in realtà il malessere inizia ad essere avvertito, quando non si ha più un controllo di questi due. E questo è stato molto conosciuto. Nel secolo XIX è stato chiamato, se non erro, il mal di Stendhal. L'esposizione a un quantitativo a una serie di stimoli artistici, tra virgolette, esagerata, finisce che la persona, l'effetto è l'opposto, anziché stimolare la sua sensibilità, A tutti la gli stessi. persona si richiude in se stessa perché dice non me ne frega più niente dell'arte, basta, non ne posso più. Alessandro citava ancora un terzo modo di consumo, che non è né il fisico né il metaforico, citava il consumo del tempo. Il consumo del tempo, vabbè, siamo in una dimensione soggettiva. C'era una serie di premesse forti, non espresse, che io coglievo nel discorso, del tipo che abbiamo un tempo limitato, o meglio, predefinito. Il tempo limitato è ovvio, che il fatto che abbiamo un tempo predefinito non è detto. Magari determinati consumi di tempo, e stimolando le nostre voglie di vivere, stimolando il nostro uso del cervello, ci Allunga. fanno. Diciamo generano più tempo, mentre che magari il non consumo, l'apatia totale, forse ci porta al crollo fisico. Prima sembra un'ipotesi ragionevole, ma comunque stavi menzionando in una dimensione molto soggettiva, interessante. In questo caso, quando, anche se si impiega le parole consumare il tempo, non stai distruggendo nulla di fisico, semplicemente stai dedicandolo a alcune cose, a vivere, a respirare, i tuoi processi metabolici, a fare un circuito autogenerativo piuttosto che a leggere un libro o vedere un film o uscire a caccia. Quindi non è letteralmente che tu hai distrutto qualcosa. In qualche modo è di nuovo metaforico perché qualche cosa che abbiamo la sensazione anche un pochettino dolente che non ci ritornerà, che quella decisione che abbiamo fatto non ha rimedio. Anche la sensazione che qualche volta, portati dalla nostra dispersività, o portati da quello che sia, impieghiamo tempo in compiti che poi a posteriori nobili del tutto non ci sembrano, no? Ci rimane un po' il vermicello dentro dicendo, forse sono stato a cazzeggiare un po' troppo. Eh sì, io siccome di questo argomento mi sono occupato varie volte, soprattutto in sede specifica, poi parlando di composizione musicale, avevo puntato piuttosto l'indice sul termine, quello che dicevo prima, informazione. Però mentre voi parlavate, io ero stimolato a riflettere. In che senso informazione? Perché uno è una cosa di informazione in senso puramente, diciamo, quello dato dalla teoria dell'informazione, che è una quantità immutabile, è quella lì. Invece l'informazione utilizzabile o addirittura utilizzata da noi, che naturalmente varia moltissimo. Per esempio, un'informazione forte, se ripetuta 3-4 volte, non è più un'informazione forte perché noi ci siamo assuefatti ad essa. Mentre dal punto di vista della teoria dell'informazione, quella è e quella resta, è un numero, punto e basta. Allora, considerando invece l'informazione, chiamiamo culturale, quella cioè che è in rapporto con la nostra persona, il nostro interesse. Allora, mi sembra che esista un consumo dell'informazione, cioè se io vedo la Gioconda 2000 volte, la Gioconda di per sé stessa mantiene il suo potere informativo, ma io non lo posso più, non lo so più sfruttare perché c'è stata di mezzo la assuefazione. Quindi in questo senso io penserei che istituendo questa nuova grandezza, che è un'informazione utilizzabile, quindi informazione culturale, chiamiamola così, lì questo effettivamente ha il decadimento dal consumo eccessivo. Per esempio, faccio un ultimo esempio perché è molto noto. Bam bam bam bam! Quando è comparsa la prima volta, deve essere stato uno shock informativo enorme. Oggi lo puoi adoperare per reclamizzare un dentifricio. Per far aprire la bocca alla gente e reclamizzare un dentifricio. Eppure, dal punto di vista fisico, diciamo, la grandezza dell'informazione è la stessa. Per noi per poterne usufruire dovremmo poter ricostruire tutta la situazione in cui per la prima volta si è sentito quell'informazione. Se non riusciamo a fare questo, capiamo, se non capiamo un cacchio. Però io farei una distinzione, secondo me, riprendendo il titolo proprio, consumo-consumismo. Cioè il consumo forse gli abboniamo, potrebbe essere quasi una cosa normale, ci sta bene tutto sommato, in certi casi. Il consumismo invece suona proprio come una parola nefasta, cioè è pericoloso, pericoloso. E come si fa a passare dal consumo al consumismo? Io stavo pensando che il problema è sempre quello del controllo, no? Del guardarsi allo specchio, in un certo senso, che può sembrare un po' vuoto, ma comunque della consapevolezza, quindi che il consumo rimanga consumo e non si trasformi in consumismo. Consumismo. Poi c'era un'altra osservazione, che riprendendo la tua, nel tuo discorso, cioè dell'informazione, ho sentito un desiderio, quindi, a ricercare sempre nuove informazioni. Tu stavi parlando, ad esempio, del ta-ta-ta-ta. Sì. Ecco, questo tu dici, l'informazione, no? L'informazione è nuova perché non si è mai presentata storicamente una figurazione di questo tipo, sì, in quella maniera così pronunciata. Sì. Quindi Beethoven, nella sua epoca, ok, quella lì era stata una novità. Sì. Questa, sentita a noi dopo 200 anni... È ancora una novità o no? Sembrerebbe di no, perché questo consumo, oppure l'immagine della Gioconda, è stata vista talmente tante volte che viene svalutata in un certo senso. Esatto. Viene svalutata. Ecco, io volevo porre l'attenzione proprio su questo parametro, cioè il fatto che l'uomo svaluta qualcosa che ha già sentito, che ha già visto o che ha già avuto, in un certo senso. Quindi una componente umana stavo analizzando. Tutto ciò che tocca, in un certo senso, lo svaluta. Esatto. Quando ce l'hai, l'hai svalutata. Quindi, certo. E questo si ricollega al consumismo, perché in questo modo tu hai bisogno sempre di nuove cose. Quindi il problema del consumismo forse è connaturato nel nostro essere, cioè nel nostro... come specie umana proprio, non come essere vivente. Ma uno potrebbe pensare, ma appunto è una domanda che pongo, è possibile fruire per esempio di quel famoso attacco senza consumarlo, oppure consumarlo in forma minima? Cioè è possibile ricostruire le condizioni tali di quando quella informazione era effettivamente un'informazione nuova? È possibile o no? E se sì, come? Secondo me, portando alla consapevolezza, cioè, in un certo senso, dicendola più banalmente, mettendosi nei panni di... Per fare questo bisogna avere un grande controllo, una grande conoscenza anche. Grande conoscenza e grande controllo. E immedesimarsi in un altro periodo storico, ad esempio, in questo caso. Valutare quell'informazione come innovativa. Già. E viverla come innovativa. E viverla, questo è molto difficile, ma penso che sia possibile. Questo sarebbe un cammino. Un altro cammino, secondo me, meno architettato, è lottare per mantenere freschezza, per mantenere ingenuità. Cioè lottare contro la nostra tendenza, già lo abbiamo ascoltato,